12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, nella puntata di oggi andiamo alla scoperta della professione dello scenografo. Proveremo a capire come funziona il lavoro in questo settore e come potervi accedere insieme a Giovanni Milanese, giovane scenografo. Lo scenografo, figura presente in tutti gli ambiti dello spettacolo, dal cinema al teatro, dalla televisione agli eventi dal vivo, ha la funzione di progettare e ricreare gli ambienti in cui si svolgono le scene. Negli ultimi anni questo mestiere si è arricchito di nuove professionalità che vanno dalla scelta dei costumi all'allestimento fotografico, dalla disposizione delle attrezzature di scena alla determinazione del budget previsto per le spese dei materiali e della manodopera. Nella professione esistono sostanzialmente due specializzazioni: lo scenografo progettista e lo scenografo realizzatore. Il primo si occupa della parte creativa e progettuale della scenografia, quindi lavora in studio con il regista e mette a punto l'ideazione scenica. Il progetto poi viene presentato sotto forma di disegni, bozzetti, tavole prospettiche e modelli in scala. Lo scenografo realizzatore invece si occupa della parte più tecnico e manuale del lavoro, ovvero collabora con gli attrezzisti, pittori di scena e costumisti e si dedica alla ricostruzione dei modelli in scala, appunto, in ambienti reali, completandoli di tutti gli elementi di scena necessari. Il percorso formativo che permette di intraprendere la professione di scenografo può essere molto vario. Generalmente, comunque, si frequenta un istituto d'arte o il corso di laurea in architettura o in discipline dell'arte dello spettacolo, il cosiddetto DAMS, che ormai è attivo presso molte università italiane, che aiuta appunto ad avere una buona cultura artistica di base. In generale è comunque consigliabile frequentare un corso di formazione specifico presso una scuola riconosciuta a livello regionale o nazionale. Inoltre, come in tutte le professioni nell'ambito dello spettacolo, anche per lo scenografo la preparazione solo teorica, per quanto approfondita, non è mai sufficiente, ma quindi è indispensabile un periodo di apprendistato, magari come aiuto scenografo. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E ora proviamo a capire esattamente che cosa vuol dire fare lo scenografo insieme al nostro ospite Giovanni Milanese. Ciao Giovanni, benvenuto a 12 minuti. Ciao Giovanna e un saluto a tutti gli ascoltatori. Giovanni, ci racconti chi sei e di cosa ti occupi esattamente? Allora, la domanda che fai è sempre un po' critica per quelli che lavorano nel teatro, nello spettacolo, perché quando a volte dici che fai le scenografie, fai le luci, poi qualcuno ti chiede, sì, ma per davvero qual è il tuo lavoro? Tanta gente pensa sia un hobby, invece c'è chi sceglie di farlo come professione, insomma. Quindi di fatto io lavoro in teatro, faccio quando capita le scenografie, molto spesso anche le luci degli spettacoli, il disegno delle luci o il montaggio delle luci, e lavoro anche un po' nell'organizzazione di queste cose. Ecco Giovanni, lo scenografo, cioè che cosa vuol dire essere uno scenografo? Che cos'è che fa? Allora, intanto bisogna dire che, insomma, prima di dire che uno è uno scenografo, sono più che altro gli altri che lo devono dire. È un po' come definire un artista, quando è che si è veramente degli artisti, è un problema molto ampio, non è una cosa che si può risolvere velocemente. Lo scenografo, diciamo, è quello che, intanto va chiarito che rispetto ad altre professioni artistiche, la scenografia è un'arte applicata, cioè non sei totalmente, si è liberi, ma è un lavoro d'équipe. È un lavoro che si fa insieme agli autori, al regista dello spettacolo, ed è un lavoro che deve tenere presente tante esigenze disparate, cioè le esigenze registiche, le esigenze degli attori, del testo e anche le esigenze logistiche, pratiche, insomma, perché non è che quando si progettano, cosa che io ahimè non faccio, le scene per le opere liriche, lì si ha una grande libertà. Quando si pensa degli spettacoli che devono girare per i vari teatri, le esigenze sono diverse, c'è anche la praticità e di questi tempi anche l'economia purtroppo è un periodo un po' triste, un po' brutto per tanti campi professionali, il campo dello spettacolo ne sta risentendo moltissimo. Assolutamente, quindi insomma mi pare di capire, ecco, che lo scenografo ha a che fare, nel senso, con un'altra serie di figure professionali di con, certo, cui si raccorda, con cui deve a che fare, deve tenere anche conto un po', ecco, di cose strettamente pratiche, perché in effetti, come dicevi tu, uno spettacolo itinerante è ovvio che montare, smontare, scenografia è ovviamente una cosa che va valutata. Giovanni, a livello formativo, qual è stato il tuo percorso e quale comunque consiglieresti per poi intraprendere questa carriera? Allora, il mio percorso, ho fatto degli studi superiori, ho fatto il liceo classico, cosa che apparentemente non c'entra. Poi ho fatto più tardi, mi sono iscritto, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Venezia e ho studiato appunto scenografia. E il fatto che io abbia una formazione classica alle spalle e non una formazione artistica è uno svantaggio per alcuni aspetti, perché per esempio di sicuro ho la mano meno esperta, meno esercitata di quelli che hanno fatto gli studi artistici, però il liceo classico ti dà delle altre cose, quindi ti insegna a lavorare con i testi, quindi hai una competenza più umanistica, però quando si parla di teatro, di opere, eccetera, avere una competenza umanistica è una cosa importante. Certo, utile, insomma, che può tornare utile. Giovanni, ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi continuiamo a parlare appunto del lavoro dello scenografo. Va bene, a dopo. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo parlando della professione dello scenografo e con noi c'è Giovanni Milanese che nella prima parte della puntata ci ha raccontato un po' cosa vuol dire fare questo mestiere e anche a livello formativo qual è stato il suo percorso, insomma quello che è consigliabile intraprendere. Giovanni, dallo studio al lavoro, come è avvenuto per te il salto? Cioè, nel senso, quali sono i canali per accedere a questo mondo lavorativo? Allora è un po', diciamo che lì le possibilità non c'è una strada esattamente predefinita. Un titolo come quello dell'Accademia ovviamente ti presenta in un certo modo, però non è sufficiente. Per lavorare, i fattori, secondo me, fondamentali da tenere presente sono tre. Il primo è quello dell'avere qualcosa da dire, da saper fare le cose, una certa qualità del lavoro. Il secondo è una affidabilità, cioè essere via via, farsi conoscere e farsi considerare uno che le cose le porta avanti, che è affidabile, che non molla lì il progetto a metà strada, che ci si dedica. La terza sono i contatti, cioè il fatto di qualcuno ti deve conoscere, altrimenti puoi anche essere bravissimo, affidabilissimo, ma non avrai dei committenti, è difficile che qualcuno ti chiami dal nulla. Quindi sono questi tre fattori. Questa cosa fa, diciamo che l'ideale è iniziare a crearsi dei contatti mentre si studia. Ecco, infatti Giovanni, volevo proprio chiederti questo, cioè se già durante il percorso di studi, insomma, c'è modo di appunto trovare degli agganci, c'è una maniera in cui appunto si può già mettere un piedino, ecco, nel mondo del lavoro. Sì, allora, per esempio l'Accademia di Belle Arti di Venezia, negli anni in cui io studiavo, ha prodotto degli spettacoli che hanno avuto anche un discreto successo, sono anche piaciuti, non erano, diciamo, degli spettacoli veri, non erano dei saggi di fine anno. Adesso, per esempio, in questo periodo l'Accademia di Belle Arti di Venezia collabora col Teatro La Fenice e realizza delle scene per alcuni spettacoli veri. Quindi, e poi, senza considerare il fatto che i professori dell'Accademia sono loro stessi dei professionisti, e quindi è bene coltivare, diciamo, il rapporto con loro e cercare di capire quali sono quelli con cui più si trova affinità e di succhiare, diciamo, la loro esperienza in modo un po' vampiresco, se vogliamo dire, ma cercare di apprendere il più possibile, al di là, ripeto, delle cose che si imparano nei corsi specifici all'interno dell'Accademia, proprio affidarsi ad alcune figure che si riconoscono come dei maestri, diciamo. Certo, Giovanni, quindi insomma benissimo lo studio, però insomma ecco anche c'è molta pratica, molta esperienza, forse anche un po' di gavetta, farsi conoscere, certo, i contatti giusti. Altra cosa è per esempio tenere un occhio sulle, diciamo, produzioni o sulle realtà giovanili, teatrali giovanili, di iniziare a lavorare con dei compagni, di età, diciamo, degli amici, e poi via via cercare di andare avanti, e attraverso da una cosa spesso e volentieri ne nasce un'altra. Ripeto, è un momento non facile per queste professioni. Chi ha voglia, di chi sente, diciamo, il fuoco sacro per l'arte, lo spettacolo, in questo momento deve crederci davvero, perché ci sono due strade, diciamo, sia la strada del fare gli assistenti al grande scenografo che la strada che ho seguito invece io, di fare delle cose più piccole però magari più vere. Sono entrambe ostiche in questo momento, non è facile, ci vuole veramente una passione e costanza, diciamo. Voglio dire, io per certi aspetti sono stato anche un po' fortunato. Io già parallelamente prima lavoravo all'interno degli spettacoli con delle mansioni più semplici, anche quelle di montare i palchi ai concerti o roba del genere, e poi via via ci si creano dei contatti e si cerca di portarli avanti, di farsi conoscere anche in un modo diverso, oltre a quello più semplice, diciamo. Giovanni, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi a 12 minuti, per tutte le informazioni e i consigli che ci hai dato. Figurati, non c'è di che. Un saluto a tutti gli ascoltatori. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. E per chi sta pensando di intraprendere la professione dello scenografo, vi segnalo alcuni riferimenti che potrebbero esservi utili. Corso di laurea in Visual and Performing Arts, piano di studio in Scienze e Tecniche del Teatro, attivato dallo UAV di Venezia. Per info www.uav.it, oppure potete scrivere a specialistiche@fda.uav.it. Diploma accademico di primo livello scenografia con indirizzo costume teatrale all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Info www.accademiavenezia.it o si può scrivere a info@accademiavenezia.it. Diploma accademico sempre di primo livello scenografia all'Accademia di Belle Arti di Verona. Info www.accademiacignaroli.it o si può scrivere a info@accademiacignaroli.it. ASC, Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori, Cinecittà Studios a Roma, è l'associazione di categoria che si occupa dello sviluppo e della qualificazione della categoria degli autori della scenografia, dei costumi e dell'arredamento, della difesa dei principi professionali di queste professioni e della collaborazione con enti, istituti, associazioni, società italiane e straniere per la soluzione di problemi tecnici e artistici. Organizza inoltre corsi di formazione e perfezionamento in Italia e all'estero. Per informazioni potete visitare il sito www.asc.it o scrivere all'indirizzo asc@asc.it. Accademia del Teatro alla Scala, Dipartimento Palcoscenico e Laboratori di Milano, che organizza un corso biennale di specializzazione per scenografi di teatro per chi ha già conseguito una laurea di primo livello. Attualmente si sta svolgendo il biennio 2011-2013, per cui il prossimo corso partirà ad ottobre 2013. Per informazioni www.accademialascala.it o si può scrivere a scuola.formazione@accademialascala.it. Scuola Nazionale di Cinema a Roma, che organizza un corso triennale post diploma, numero chiuso e con frequenza obbligatoria, di scenografia, arredamento e costume. Per informazioni potete consultare il sito www.csc-cinematografia.it. Infine IED, Istituto Europeo di Design, con sede a Roma e Milano, che organizza un corso triennale post diploma di interior design, indirizzo scenografia degli eventi. Per informazioni potete consultare il sito www.ied.it. E per oggi è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.